Rosa di Licata. Gaon era delicata Rosa. Rosa era aspra, braccia e mani grandi e grande cuore, forte cervello e dura Rosa delicata. Rosa nasceva a Licata, nel sud del sud, nella Sicilia del fascismo, nella Sicilia del padre, nel nome del padre, padrone e padrino. Rosa nascì in una stanza da spartirsi con tre frati e due genitori. Cinque cristiani che mangiano, dormono e si pistano i peri, cinque cristiani. Ma manco le bestie la miseria che si li mangia. Ma Rosa cantava. Cantava sempre, cantava dappertutto. Cantava anche quando andava a spiegare nei campi in aiuto al padre a cogliere erbe selvatiche per riempire la pancia. E Rosa cantava, cantava sempre, cantava dappertutto. E il padre la mazzuliava. È una femmina che canta e cosa lorda, femmina di malaffare, che la femmina muta e debba restare. E Rosa cantava, col cuore grande e la voce rugosa. E Rosa cantava, col cuore aperto e la voce squagliata. E Rosa cantava col cuore sanguinante e la voce maleducata. E Rosa cantava, cantava la sua storia, Rosa, di Sicilia violata, di povera sfruttata, di contadina analfabeta, di proletaria disgraziata. E Rosa cantava, cantava e piangeva, di questa terra buttata, di Italia conquistata, di baronia incallita, di acqua prosciugata, di mafia. Ammazzata. Piangere alle fede del norte. costretta a sposare mio padre a 14 anni. La levarono dal convento e la sposarono mio padre. Mio padre era molto più anziano di lei, era già vedovo. Aveva bisogno di una moglie giovane e sana che gli desse dei figli. Mio padre e mia madre fecero 5 figli, più per abitudine che per amore, per l'occhio della gente. Ma io non l'ho mai vista contenta, mia madre. Mio padre era un bravo ebanista. Costruiva mobili, pagliava sedie, faceva utensili. Cioè, la chiave era l'unica stanza dove mangiavamo e dormivamo tutti quanti. Quando c'era un travaglio, diventava anche un Natale. Raccogli spighe! Mio padre era un gran lavoratore. Ma era geloso. Geloso di mia madre. Dalle sue mani uscivano mobili bellissimi e botte da orbi. Mi ricordo quando avevo qualche 5-6 anni. Viveva accanto a noi un bustoleri, un sarto. E mio padre diceva che era troppo gentile con mia madre, troppe belle parole, troppi complimenti. Una sera se ne torna a casa ubriaco e se la piglia guida. Buttana! Capibarca sul nuovo! Ti metti l'altro giorno che ci scacciassi l'occhio! Tu, guido facisti figlio! Buttana! E giù calci e pugni per farla abortire. Poi prese una sega dal tavolo su cui lavorava e si avventò contro di lei che mi sembrava eccitato per sfugo. Mia madre lavorava come un somaro, come una bestia. Io che ero la più grande, mi occupavo della casa ed un piccirillo mischinetto che era paralitico. Dormivamo tutti nella stessa stanza. E quando c'era travaglio, era così. Mio padre non usava delicatezze di nudo. Ricordo una sera che voleva prendere mia madre. Lei non voleva perché diceva che eravamo ancora svegli. Bene, sta fermo dopo. I vicini ancora veglianti su. Arregami, zitti, ti caio un comando. Ma così che per brutto vastaso. I vicini ti ancora veglianti su. Ah sì? Allora domani pane pinuto. E l'indomani saltammo tutti il pasto. Chiovi, chiovi, chiovi, ragazza fa i promi. Su ci si marita con una coppola di sita. Arriva la cognata, una veste raccamata. Arriva un signori e fa spuntare Osuri. A mia mi è sempre piaciuto cantare, io cantavo sempre, cantavo dappertutto, che se non cantavo morivo, morivo. Mi ricordo un giorno mentre me ne stavo alla finestra, ecco che cosa devo cantare. A un certo punto mi si para davanti un soldatino americano che comincia a fare belle parole, baci, applausi. Si chiamava Frank. Aveva tutti e ti mischi e miuri, con due boffette alla siciliana. E in effetti era di origine siciliana e ci sapeva fare come siciliani. Ogni volta che veniva mi dava un regaluzzo e 5 dollari. Mamma mia, quanto mi piaceva sentire i baffetti sulle guance, sul collo. No, non è che volevo fare la fine di Carmela che si era buttata al fiume perché il marito non l'aveva trovata regina prima notte di nozze. No, no, no. Io lo tenevo a debita distanza. Frank, le mani al suo posto. Ah. Frank! Ah, dimmi Frank! Ah. Ma lui diceva che mi voleva bene, che mi sposava, che mi portava all'America. Una sera arrivò e mi diede una collanina d'oro, 20 dollari e un pizzuto di carta. E che so bene? Che c'è scritto qua sopra? Che fa? Devo lassare? No, ma quale lassare, lassare, poi torno, ti porto all'America. Sì, vabbè, gli americani se ne andarono. E io di lui non seppi più nulla. Ma l'avevo detto io. Aveva gli occhi troppo furbi. Udino di sì, ti dai all'assai, ma più lo morto diventa che sono. C'era qualche matrimonio, qualche battesimo, venivano da mia madre e ci dicevano: donna Vicenzì, ce la possiamo portare in rosa per un'oretta? E mia madre aspettava che mio padre si fosse curcato. E poi ero libera, libera e felice. Amen. e la zia Maria Annina mi voleva per suo figlio Angelino, un bandolicciotto, riccio, moro, e che sapeva pure suonare la chitarra. Ma mio padre diceva che era lagnoso, che non aveva mestiere, tepe dei tappeti. Oh, ma dai, dai, e ci fidanzammo. Angelino veniva una sera sì e una sera no, e ci mettevamo uno da una parte e uno dall'altra del tavolo. E mio padre in tumenza, guardia. A me Angelino piace assai. Aveva il desiderio di toccargli quei ricci meravigliosi. Ma neanche schivarci potevamo. Una sera scoppia un temporale con tuoni e fulmini che apri di cielo, e siccome se ne è fatto tardi, e Angelina abitava assai lontano, mia madre lo fece rimanere a dormire lì con noi. Chiaramente dopo che mio padre si era messo a russare, io me ne stavo nel letto con mia madre, che mi teneva stretta per una campa. Allora adesso c'è la mia Angelino, che non riusciva a dormire. Non appena mia madre si mette a russare con l'itta, me ne andai a tagliare Angelino, dormiva saporito. Ma te l'hai che bello. Della finestra che ci spatte giusto giusto in faccia. Avrei fatto qualsiasi cosa con lui. A un certo punto mi presi di coraggio, ci presi la testa e me la misi in tubetto. E chi non si che abbracciarmi? Thank you. sia Mariannina volevo un cazzo. Un cazzo? La carta scritta! Mi corredo a 24. 24 mutande, 24 lenzuola, 24 camise. Ma chi ce l'aveva 24 camise? Che io la pena via chi da che via il collo. E poi voleva pure la casa. Ma la casa, ma come si faceva con la casa? Che ci abitavamo tutti quanti, padri, madri, solo, frati, pure il porco e quel puzzo che si moriva. No, no, no, un amore che non scorderò mai. Finito il matrimonio con Angelino, mi dovevo sposare a forza, che ormai ero, come si dice, compromessa, va? E allora mi chiedono a uno di 35 anni e basta. Un vecchio! Ma che certo un vecchio, mi piace, ma la pena ne aveva 17. Ma poi quella. Ma com'era stu Gioacchino Torre Grossa? Ah, com'era? Con la conoscia! Comunque, guero, come non era, ci dovremmo sposare. Questo io conosco. Basta. Ma per fortuna, facciamo un matrimonio a banca. Cioè, quello che si fa solo in municipio, almeno ci davano un sussidio. E durante il fascismo, non è che era passato assai tempo. Guarda, mamma. E siccome era matrimonio a banca, ognuno se ne stava alla sua casa. Un giorno però, Iachino mi tese un gianello. Mi manda a chiamare e dice che si sente male, vieni, vieni, corri, vieni, vieni. Allora io piglio e vado a casa sua. Non appena entro me lo trovo un freddo, dritto, un palato in pastanza. Allora capii l'inganno. Cercai di scappare, ma piglio, mi butta a terra e mi possedette. Quando tornai a casa, non ci dissi nulla a mia madre che mi vergognavo. Però col passare del tempo il pancione mi cresceva. E allora ci dovremmo sposare in chiesa e andammo a vivere insieme. Iachino era lagnoso. Non aveva mestiere. Sì, vabbè, faceva qualche lavoretto, piscava sarde e rubacchiava. E poi ci piaceva vivere più care. Era lagnoso, ubriaculi e laci. Una sera si torna a casa che dice che ha perso 1000 lire. E la mia che me le dà 1000 lire? Chiedici la tua pace, ma chi ce le dà a mio pace? Chiedici la tua pace, ma chi ce le dà a mio pace? Chiedici la tua pace! Poi piglia, mi spaganta sul letto e comincia a dare pugni e pedate e fare un cornuto. Poi a un certo punto mi fai ora brutta bagascia, fa chi da davanti più chiave. Mi faceva schifo. Cercai di colarmi, ma sentivo un sangue che scolava le cosce, il bambino che stavo uscendo. Dopo un'ora il bambino era morto. Iachinazzu! Allora me la fai, me ne ritornai a casa da mio padre. Per 2 anni non avevo di sapere niente. Ma poi sai com'è? Si mette di mezzo la gente. Mio padre, mia zia, altri parenti. E dovremmo ritornare insieme. Di mia Martinez. In un anno tipo di pensata mi chiamava da mio padre nell'unica stanza dove mangiavamo e dormivamo tutti quanti. E quella sera Iachino non perse tempo, non perse tempo, Iachino non aspettò neanche che gli altri si fossero addormentati. potevamo fare. Per fortuna che nelle case dove andavo a servizio mi davano sempre qualche cosa a mangiare, chissà, una bicchiera di pane, di pasta, di olio. Donna Giovannina, quando mi nacque la piccerita, mi fece un corredino. Non mi ha che doveva fare il corredino, eh? Chitta, una santa, era una santa, vero? E domani la carne. Ma non si va a giocare con un picco. Una sera prima picchia tutte cose, lenzuoli, vestitini, braccialetti, orecchini, picchia e se lo va a giocare a carte. Allora io aspetto, aspetto tutta la sera, aspetto tutta la sera, poi non appena prima ci faccio un ne. Un ne, un corredino da vicinita, che ce l'ho subito, se no viene tu. E chi come ti dai risposta a picchia e mi spagato la cosa che c'è in testa, allora io non ci finisco. Presi una riga dal tavolo di mia madre e gliela picchiare ancora, picchia, picchia, porco, ma stai, porco, picchia, porco, porco, porco. Ammazzai. E nelle corsi dei carabinieri con le mani ancora sporche di sangue. Non muore mai! Ma niente ci avevo fatto, che ci avevo fatto? Una picchia di sangue, che? Scenografia! La mia però mi processarono e mi diedero 6 mesi. A Iddo ci tolsero la pace potestà, ma mia, mi misero in carcere! In carcere! E giurai che per mia Iachinazzo era veramente morto. Carza di casi fatto cruci cruci, mari ditto d'infami cati fici, quello che andava facendo. Non appena entro nell'ufficio, lui picchia e mi chiude la porta alle spalle. Poi, senza dire neanche va, mi sbatte contro un muro, una mano sulla bocca e una mica nel motello e comincia a fare come un cane. Finito che ebbe di sfogarsi, mi cantando, che cantare era la mia liberazione. Signoruzzo, chiudi, chiudi, caro Rizzo, morti vestiti, annatri ora buona, senza lampi e senza ruona, mannatri ora buona, senza lampi e senza ruona. L'acqua in cielo sazia la terra, bottiglina di pietà, le nostre lacrime posano in terra e Dio ne fa la carità. Signoruzzo ne castigati, caro panuzzo ne levati. L'acqua in terra ore o giorno, con le mani sempre in tall'acqua che si spaccano. Poi finito il periodo delle sarde e ti dovevi trovare un altro lavoro. Io per fortuna quel periodo ci avevo avuto la vicinita e quindi avevo assai latte e ci vai per allattare, come si dice, la balia. Mi davano a mangiare il pane e puro 7.000 lire. Però poi il latte finivo. Allora ci convinsi mio padre a mandarmi a Palermo. La piccirita mia figlia la lasciai allegata a mia madre che me la portava a fare a Palermo. E io me ne andai a Palermo. Qui mio zio mi trovò subito un lavoro in casa di insegnanti. Magari non è che mi pagassero assai, però mi davano a mangiare, mi davano a dormire. E poi ero a Palermo. In questa casa c'erano due figli mascoli. Cito più grande che studiava più medico, a un certo punto si mette a farmi la porta. Dopo tutto quello che avevo subito. Ma io non ci volevo cedere, no? Ma quando mai? Ma poi sai com'è la paglia vicino al fuoco. Una sera se ne sale nella stanza dove dormivo, comincia a dire cose dolci, pregarezze, baci. Dopo tanta violenza, qualcuno che mi trattava come un essere umano e gli dice: tutte le sere io aspettavo che lui venisse, che se lui non veniva a trovarmi io morivo, morivo. Un anno durò questa storia, che non mi accorsi di essere incinta. Allora a quel punto lui arrivò e mi convinse. Rosa, sono le chiavi del cassetto di mia madre. Piglia tutti i soldi che trovi, poi me li porti e io ci apro un ambulatorio e poi prendiamo una bella casetta e ci andiamo a vivere io, te e il bambino e saremo felici. Ma fino a quel momento nessuno deve sapere più niente, ah Rosa! La mattina dopo la signora mi venne a chiedere conto e ragione del furto. Io ci negai tutto, ma mi si leggeva tutto un papaccio. Nega, nega sempre, nega tutto, poi se per caso ti dice io prendo il migliore avvocato di tutta Palestra e ti tiro fuori. Ma qual'avvocato mi facisse piacere, qual'avvocato? 7 mesi mi diedero, 7 mesi, e senza neanche la condizionale, 7 mesi, ma scalzò. Ah! cantavo sempre. Cantavo dappertutto. Poi non lo sai. La rosa nasce una spina. E la spina nasce una rosa. E così ebbi la fortuna di trovare lavoro dal conte d'Este. Era una persona nobile di nome e di fatto. E ci attavano come una di famiglia, va? Tant'è vero che un giorno la contessa mi insegnò a leggere e scrivere. Chi l'aveva mai fatto leggere e scrivere? Come rinascere? Nascere una seconda volta. E a 20 anni. Il primo nome che scrissi fu proprio il mio. Rosa. E cantavo, cantavo sempre, cantavo dappertutto. Ma ognuno sa di una spina nasce una rosa. E di una rosa nasce una spina. A un certo punto i conti non avevano più bisogno di me e mi licenziarono. Però, siccome erano persone nobili di nome e di fatto, mi trovarono da lavorare nella parrocchia a fianco casa. Allora sì, ora me ne tornai a Licata e me ne andai a pigliare figlia, che almeno, e anche mio fratello Vincenzo, va, che almeno ci toglieva un peso a mia madre, mischina. E mi riportai tutte e due lì a Palermo, nella sacrestia. Tutte le mattine mi susivo all'alba, pulizzavo la chiesa, tutte cose. Poi alle 7 ero pronta a servire messa. Vivevamo di elemosine, almeno vivevamo. Oh, ma quando la disgrazia e lo malodestino ti si attaccano, non ci vuole niente. Un giorno arriva nella parrocchia un parrino, bello, alto, biondo, occhi azzurri, un normanno. Capii subito che con mia ci voleva ricamare. Sempre troppo gentile, sempre belle parole, e una mano sulla guancia, e una mano sul collo, e una mano sul fianco. E l'uccellino uscì fuori dalla gabbia. Aci tu su di me con mai, senza pinne, senza ali, ci pusau sopra la testa. A me con mai ci pigi gran festa, ogni berto sta ci tu su di cantare. Non si può fare neanche questo, ma devo dire per forza. pazzo. Sentissi, parli con mia, non ci ne ci niente, le mani se la mette nei fetti, no cu! E quello comincia a sfondare la testa che mi devo confessare. Ma quando mai? Io non mi confesso, non mi sono mai confessata e non mi confesso. O signore, lo prego anche nel sottoscala dove sto. Allora quello comincia a dire che me ne devo andare. Quando mai? Io sto qua. La mattina dopo, mentre ero lì, come al solito, per esservi promessa, a un certo punto, dico, chi è il Kid che si picchia l'offerta a posto mio? Allora capì e cominciai a rodeare l'incensiere sulle teste delle persone e tutti a dire, ammazza, ammazza, riesci, ammazza, sì, ammazza, sogno, ammazza, sogno, finché la chiesa si svuotò il padrino come uno stronzo sull'altare. Questo non è più posto per te, te ne devi andare. E me ne vaio, padrino, ma no, morta di fame. E me ne andai a rompere tutte le cassette delle elemosine dei santi. Cane, i soldi dei santi. Ma questi soldi non ci servono ai santi, ci servono a noi poveri cristi, per mangiare, per accattare ci scarpe, ma è più che fossimo tutti uguali, senza ricchi e senza poveri, chi sta la volontà di Dio che mia? E quello parli come comunisti. Guarda che ti posso denunziare. E mi denunziasse per lì. E meno male che c'è chi predica bene. Siete un grandissimo porco! Come i porci, quelli che ci tengono affamati. Come i mafiosi. La mafia e i preti si tengono per mano. Uno isa la cruci e l'altro punta e spara. La mafia di Parrino si destirò la mano. Povero cittadino, povero paesano. Mafia e Parrino si destirò la mano. Mafia e Parrino si destirò la mano. Mafia e Parrino si destirò la mano. Mafia e Parrino si destirò la mano. Presi tutti i soldi dei santi, presi la bambina, presi mio fratello e presi il primo treno verso il continente. Volevo andarmene lontano, a Milano, all'America, alla Ushuaia, per dimenticare tutto, per dimenticare tutta la fame che avevo patito, tutte le violenze che avevo subito e tutte le ingiustizie che avevo invogliato, per dimenticare questa terra di fame che mi inghiotta e chiama concorrenza, questa terra maledetta che mi aveva rubato 20 anni, questa terra maledetta che mi aveva rubato i miei primi 20 anni, terra maledetta che non ti dà a mangiare, che non ti dà lavoro, che non ti dà giustizia, che non ti dà speranza. Maledetto documento che ha gradito in terra da sconferno. Thank you. Cicchia! Giotto, il Duomo, con le strade che erano sempre puliziate, ma le bottiglie di latte fuori dalle porte delle case. Pulati, ma con tutta la fama antica che avevamo, allicata, crocato della cornizza si portavano sulla salipora. Ma a Firenze quasi subito trovai da lavorare in una famiglia di Messina. Allora me ne tornai giù allicata, andai a prendere tutta la famiglia, mio padre, mia madre, mio sogro. Dopo poco arrivò pure l'altra sorella, Chitta, che si era sposata a un malacarne che la mazzuriava mattina e sera. Ma ora che eravamo tutti riuniti in una bella casa con due stanze e pure con il bagno, eravamo felici. E io cantavo, cantavo sempre, cantavo dappertutto. Uia, uia, un cavalluzzo mio avanti quarto, un ne vabbà. Un giorno arrivò quel malacarne del marito di mia sorella che la ci voleva un 10 all'entrata. Edda non voleva sapere che doveva venire a fare, a picchiarsi botte e mazziate, ma quello non ci poteva niente. Veniva un giorno sì, L'altro pure un giorno sì e l'altro pure un giorno sì e l'altro pure un giorno picchia, arrivò all'ammazzò. La morte di mia sorella portò la notte in casa nostra. Mio padre non se ne dava né conto né ragione. Una sera uscì di casa, si fece mezzanotte, si fece l'una, si fece le due. Lo cercammo dappertutto, persino dai carabinieri. Fui a ritrovarlo. Penzolava impiccato da un albero del lungarno. C'era sostanza, che non era la solita storiella. Dopo un anno andammo a vivere insieme. Io con Manfredi ho passato i 12 anni più belli di tutta la mia vita. Lui faceva il pittore, ma siccome all'inizio non era assai affermato, a mantenerlo ci pensavo io. Mi ero accattata un banco di frutta al mercato, tutte le mattine mi susivo all'alba. In chivo il berretto di come pire e alle 6 ero già pronta da bagnare. Puma! Pira! Accattata mille! Ah, comarinina! Ah, comari Vicenza! Comarinina, comari Vicenza! Metti di Valenza che nasce un bebè! Puma! Pira! Si masculito l'umano alla scuola! Da quasette me fa, ah, cumarinina, cumma, pira. Manfredi mi faceva i ritratti e io cantavo alle sue mosse. E grazie a lui ho conosciuto tanta gente importante, gente istruita, ma tipo Sciascia, buttuso, buttitta, gente che parlava come un libro stampato. E chi l'aveva mai letto un libro stampato tutto insieme? Poi un giorno seppi che dovevano venire a Bologna Ciccio Busacca e Ignazio Buttitta, il cantastorie e il poeta più importante di tutta la Sicilia. Io di Buttitta avevo letto solo qualche poesia, erano poesie che parlavano di me, parlavano di miseria, di libertà, di ingiustizie. Fu come un fulmine che mi squarciò il cielo. Allora convinsi Manfredi e ce ne andammo a Bologna. E quella sera io ero come stordita, chissà, cioè, su quel palco c'era Busacca che cantava e Buttitta con la birritta in testa che recitava: Turitta le aveva raccontati, ma incontrava la morte a Cirinia, che vedia le frati condannati sotto l'opera della tirannia e sopportare non podia l'abuso di lo barone e di lo mafioso. E mi sono riconosciuta. Riconosciuta e innamorata di tutte e due, perché anche io volevo cantare come Busacca, anche io volevo raccontare come Buttitta. Poi un giorno Buttitta venne ospite a casa nostra a Firenze e in uno di quei pomeriggi che ce ne stavamo lì a casa, a un certo punto Ignazio mi fa: canta però, ma non a cantare Villaggi, Pittia a cantare. Allora io mi metto a cantare il progetto delle mie canzoni e Ignazio bramitagliava con quegli occhi da disimancia. Poi a un certo punto si fa serio e mi dice: devi imparare a suonare la chitarra, perché tu sarai la cantatrice del sud. Allora io me ne andai a comprare una bella chitarra. E mi feci insegnare da Saverio Coelho. Ora me ne andavo in giro per la Toscana a fare concerti e cantavo canzoni, anche canzoni mie, ma canzoni anche impegnate. Per esempio quando ci fu l'epoca dell'emancipazione che inventarono la pillola. Ma in siciliano si dice a pillola! Cari, che vai a raccontare un fatto strano assai, un fatto eccezionale, un fatto di sti femmini belli come le mammole, i capicchianoni piccoli apposta per campa. Va ricordati Aida, città di San Cristoforo, scappata con Francisi, tuo pezzo di figliolo, cammini mini donna, ora che è ritornata, parla che è premoscia, è tutta emancipata. È vero, dimmi Aida, dopo il suo paese inventarono una pinnola, casi di ogni mese, di chi quando ritardano gli ospiti aspettati, sono un dolore storico. mancava giusto giusto la Sicilia. Questo spettacolo si intitolava Ci ragiono e canto. Allora io senza neanche ragionare picchio e vado al teatro della Pergola dove facevano i provini. Non appena salgo sul palco mi metto a cantare. E quella sera, su quel palco, a 39 anni suonato, quella sera, col mio nome scritto nero su bianco su quel cartellone, quella sera io non sono stata più semplicemente rosa, rosa delicata, ma sono diventata Rosa Balistreri. Allora, prima di salire sul palco, mi sono detta: però pensa al porcile di Dio Martinez. Però pensa al tuo Astaso di Giachinazzo, alla violenza della Vecceria, do porco do signorino, il prete malandrino di Palermo. Canta, però, ma canta pittia come ti disse Buttista. Cantarò, canta la Torreggia, cantarò, canta lo Duri, cantarò, canta la Raggia, lo Duri e l'amore. Stasera vai e curru curu vento, aggravi i porti di la storia. Stasera voglio dare un momento, la vita al passato e la memoria. Stasera con la mamma di amori scava una fossa. Saluduri, c'è più dolore, c'è più tormento per gioia e amore qui l'umanità. Non è il pianto che cancia il destino, non è lo scanto che ferma il cammino, grato di pugna, punto di vita, resto cusugno. E fai ancora come va il vento, cercare pace solo per un momento. Voglio spaccare, spaccare i cieli, per fare piove, piove di amore. C'è cuco in canna, c'è cuco manna, e con silenzio tu si mi sta, dentro cuchi che forza di potenti, e lo silenzio. Ammazza di innocenti, grapoli pugna, conto le dita, resto sogno, scorro la vita e canto e punto, punto e canto, quindi non perdi, lo punto, quindi è scomuno punto. magistrati, campita abusi di fami di guerra, crescivo un manso di malannati, lacrimi mutini che ancime quanti, la mia innocenza. Era spartirun tanti, la gente, si prepotenti, tanti su tanti, questa società non è l'amore che cresce ad ogni panna, ma tu fa pure che sparti cucumanna, gratuli pugna, quando le chieda, resto un sogno, scorra vita, canta e conto. Rosa cantata.